Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Gli errori di traduzione non ci sono stati e il tempo è corso via. Sono stato troppo lungo io. Grazie ad Alessandro Diegoli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. Thank you.